Io vi amo e so che dovete scrivere qualcosa. Scrivete una cosa sugli Appennini. Veramente? Eh? Mettete Ferrero sull'Appennini. Eh? Dai! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Aveva fatto, sono studiati, ma non sempre tutte le ciambelle riescono col buco. Poi siamo stati sfortunati perché siamo andati molto vicini, è mancato un non nulla perché si potesse molto bene Gabbiadini ha fatto una grande giocata. Riesce il triangolo, sì, con Ferrati. Sì. Eder cerca la conclusione. Va bene al verticalizzare dal centro, ma queste aperture sugli angoli dei bordi dell'area li costringono veramente ad aprirsi questa difesa. Questo è l'unico motivo per non addormentarsi di fronte a... Che è il trap, che il signor trap, partita, il signor trap, Luigi Pardo è qua. Tornato, due giorni di fila, sono... Incredibile, Incredibile. Un messaggio molto chiaro, molto preciso, Senti. Noi siamo ancora qua, già 800240024. Capuano dov'è? Capuano domenica. All'Expo. Bene, a proposito, non ho ancora detto, da domenica per tutta la prossima settimana saremo. Bravo. Torniamo all'Expo Cibus Italia. Bravo. Ci trovate lì, venite anche in studio, se volete, sì, tutti convocati direttamente all'Expo. Avevano ragione gli assenti ieri sera. Sì, quelli che non ci sono andati, meglio a casa col telecomando. I timidi, gli scettici. Sì. O fuori a godersi queste serate d'estate. Italia che direi deprimente, ma brutta. L'unica cosa salvabile è il risultato. Fra l'altro c'è anche la beffa in positivo, la beffa per la Croazia, insomma. E la gioia ulteriore che siamo primi nel girone, improvvisamente è un paradosso dopo una delle peggiori partite, forse la più brutta della gestione Conte, però siamo veramente vicini al traguardo. Se battiamo la Bulgaria direi che siamo a dama, non... anche perché c'è Norvegia-Croazia adesso. Sì, non vale il mal comune mezzo gaudio guardando, lo stavamo facendo adesso, l'Olanda che ha perso in casa contro l'Islanda, la Croazia appunto inchiodata sullo 0-0 dall'Azerbaigian, non sono giustificazioni per quello che abbiamo visto. No, però ieri sera. Guarda, non sono giustificazioni, però una cosa si può dire, credo che sia assolutamente chiara, evidente, semplice, forse in qualche modo si lega anche a questa nuova formula dell'europeo, dove non passare il turno veramente devi essere bravo, sì, nel senso devi impegnarti, visto che l'europeo ha 24 squadre, con le prime e le seconde che passano, più direttamente la migliore terza, più le 4 del playoff fra le terze, quindi insomma, diciamo, è molto difficile non passare il turno se sei una grande squadra. Detto questo, mai come questa volta vediamo uno sconvolgimento di quelle che erano le gerarchie storiche del calcio, che è un fenomeno sempre più globale, e quindi può succedere che l'Islanda metta in grande difficoltà l'Olanda, come sta succedendo per esempio, che il Galles, insomma, tante volte abbiamo raccontato la frustrazione di gente come Ryan Giggs per esempio, che non aveva una nazionale all'altezza e aveva chiaramente invece tutto il merito di poter fare un grande percorso per la sua qualità. Beh, insomma, il Galles è un passo dal traguardo. L'Albania stasera gioca la Danimarca, speriamo ovviamente per De Biasi che riesca a centrare l'obiettivo. Insomma, mai come questa volta non siamo solo noi a soffrire, no, ma tutte le grandi tradizionali sono in difficoltà. Galles che peraltro ha vinto 1-0 a Cipro, la Spagna dietro la Slovacchia nel suo girone, no? E quindi... poi stasera c'è la Germania con la Polonia, che la Germania non benissimo, ma tanto sappiamo perfettamente, e Conte ce l'ha ricordato, sappiamo perfettamente di chi è la colpa. Non c'è una costruzione, ma c'è una ricostruzione, che è ben diversa, ecco, nel senso che uno può anche costruire su una situazione vecchia, no? Invece c'è un ricambio generazionale, quindi bisogna ricostruire a partire da zero, bisogna tener conto che ci sono anche tanti ragazzi nuovi che non hanno per niente esperienza internazionale e che la devono fare, quindi io ho pazienza, bisogna vedere, ecco, se la pazienza l'avete anche voi. Però ecco, tante volte a parole sembrate che capiate alcune cose, poi nei fatti dimostrate il contrario. Capito di che è la colpa? No, però premesso che non c'è niente di tragico, cioè secondo me siamo on track, siamo sul binario. e quindi fino a questo momento la gestione di Conte secondo me non va bene, non vedo grandi problemi, però questa risposta di Conte francamente non è il massimo, nel senso che da uno come lui, proprio da uno come lui, tu sai che io nell'estate del 2013 per quel pochissimo che conto mi ero espresso, perché secondo me era una scelta ottima come allenatore della nazionale, e penso che lo sia, e insomma da uno come lui ci si aspetta qualcosa in più. È chiaro, e lo sta imparando sulla sua pelle, che il calcio di club è diverso dal calcio delle nazionali, che c'è poco tempo, che l'allenatore della nazionale soprattutto è un selezionatore, quindi è uno che deve essenzialmente prendere atto delle gerarchie che ci sono nel campionato e riuscire a fargli fare meno danni possibile, più che un allenatore che può lavorare 365 giorni all'anno. Questo si sapeva già prima. Però questo si sapeva già prima. Io avevo parlato con lui in quell'estate famosa, lui era probabilmente un pochino più ottimista sulla possibilità, con il suo carisma, con la sua personalità, anche con la sua aggressività nel chiedere le cose in certi, mm-hmm. certi casi, forse era più ottimista di riuscire ad avere più spazi per riuscire ad allenare la squadra. Invece fa fatica ad allenarla, deve selezionarla e i risultati sono così così. Sì, anche se un paio di stage non è che ti possono cambiare la vita. No, però sai, secondo me Conte giustamente in quell'estate lì, poi figurati dopo gli scudetti consecutivi, la chiamata della nazionale, insomma ti viene anche, ma giustamente, un po' di delirio di onnipotenza, no? Certo, pensare che sei in grado, sei più forte dei problemi, sei più forte, ecco, io credo che Conte questa idea ce l'avesse in testa e credo che si aspettasse lui stesso qualcosa di più dalla sua squadra, premesso che ripeto poi alla fine i risultati sono in linea, non c'è niente. Si vede però il valore aggiunto di Conte, non si vede neanche, la situazione è sotto controllo, e poi tanto lo sappiamo che gli europei te li giochi in quel mese lì, soprattutto con queste qualificazioni, ribadisco, ridicole, veramente hanno fatto sto format che è una roba assurda, a questo punto non le facessero proprio, no. Sorteggioni in sala mensa, tra l'altro sai a me che cosa, a me piacerebbe moltissimo, invece di queste noiosissime pause durante l'anno, a me piacerebbe moltissimo che negli anni dispari il campionato finisse prima, ma certo. e ci fosse un mese per fare in quel mese lì le qualificazioni, tu avresti a quel punto un mese di grande calcio, non a livello degli europei, dei mondiali dell'anno dopo, dell'anno pari, però insomma anche dal punto di vista televisivo tu avresti tutte le serie delle partite dei vari gironi, insomma sarebbe secondo me più stimolante rispetto a questa pausa campionato che fa un po'... No, allora le nazionali sono un fastidio per tutti. D'accordo, questo... anche De Luca, De Luca fra l'altro ricordiamo è napoletano ma è svizzero, quindi diciamo avendo il doppio passaporto può... Doppio passaporto, è napoletano svizzero. L'altro ha comprato. È napoletano, è metà di Posilli, anzi metà di fuori grotta e metà di Zug. Allora, prima di fermarci sentiamo un altro Conte che invece era felice perché i tre punti sono stati raggiunti, quindi viva il minimalismo. Ma il giudizio li date sempre voi, quindi è giusto che i giudizi li date voi, io devo fare delle considerazioni tecniche, tattiche. Mi sembra che sia accaduto tutto quello che ho detto ieri, quindi non è che andate a rivedere l'intervista di ieri, vi ho detto che sarà una partita difficile, non vi aspettate la goleada, dovremo fare attenzione alle ripartenze di Fiong, conta vincere. Tutti convocati. Convocati. Trump, qual è la tua opinione? Pallone fuori in questi casi o si continua a giocare? Diciamo che dipende dalla serietà professionale e da ciò che appunto dell'etica. Anche tante volte squadre in difficoltà possono anche usufruire di questo. Abusare un po' abusare di questa situazione. Siamo andati in vantaggio anche meritatamente perché era inevitabile che come una spugna si pone l'acqua. Hai visto come ha esultato Antonio Conte? Poi però finisci questa metafora, come una spugna si pone l'acqua e che succede? Che alla fine la spugna perde anche acqua e così è successo alla difesa del Malta. Grande trappo. Faccio il pirata ma non mi va e tengo pure una certa età. Sono tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio Credo abbia scritto lui, Pierluigi Pardo, la chiave tattica su Corriere dello Sport. L'ho scritto io? No, l'ha scritto Trapattoni. Sì, l'avevo visto. Fantastico. 800240024, vi ricordo lo straordinario contributo dello splendido Giorgio De Luca in regia, dell'affascinante Giorgio De Luca in regia. Napoletano svizzero. Esatto, e abbiamo già le prime telefonate, abbiamo già i primi collegamenti. Che cosa abbiamo? Abbiamo questo messaggio di Gaetano De Luca, non so se l'hai visto. ci attacchiamo e critichiamo i gol di mano di Pellè, mica colpa di Conte se Osvaldo e Balotelli preferiscono una passera alla nazionale. Mi stavo chiedendo se avresti detto passera, l'hai detto. Beh, strano. No, abbiamo Maurizio Crosetti, finalmente. Lo inseguo tutta l'estate, ma ha fatto la vacanza lunghissima a Formentera. Maurizio, ciao. Sì, come no, certo. Come va? Alle Baleari, io sono alle sempre Baleari. Hanno visto in discoteca Ibiza. Formentera ormai è stata sdoganata dalla parte renziana del PD, secondo quanto ho letto un pezzo sociologico l'altro giorno sul fatto che è un luogo... Infatti questa sarebbe già un'ottima ragione per non andarci mai. Ecco, Crosetti, in Sicilia. Ma nella Sicilia meridionale, il professor Crosetti, meridionale, vero? Direi sudorientale. Marina dove di Ragusa. Non c'è ombra di anziano, ma ci sono delle robe, ragazzi. Marina di Ragusa, da quelle parti? Da quelle parti lì, sì. Sotto Tunisi, praticamente. Senti, ma cosa facciamo? Recuperiamo Balotelli, Rossi, Destro, sta gente qui? Aboliamo le nazionali perché non se ne può più, sono un fastidio per tutti? E poi c'è il controsenso per cui dobbiamo castrare in qualche modo le squadre di club per dare fiato alla nazionale che batte 1-0 Malta davanti a 300 spettatori. Beh, intanto se dobbiamo recuperare qualcuno, direi che da ieri l'unico titolare fisso della nazionale deve essere il Trap, perché veramente apprezzo molto la supercazzola del Trap, come se fosse Antani. Penso che abbia davvero la spugna di ieri sera, scavalca a sinistra anche il gatto, il 4, il sacco, noi che c'eravamo, dico, davanti al teleschermo, potremmo raccontare ai nostri nipotini, quella sera quando il Trap ha parlato della spugna e degli angoli laterali, meraviglioso. Questa è la premessa. Quindi, c'ero anch'io. Lui titolare fisso, sugli altri da Balotelli in giù si può discutere. Beh, insomma, si è detto fino alla noia che il calcio italiano in questo momento non esprime molto di più, può esprimersi un po' meglio, anche se non esprime molto di più. Sì. Questo lo sanno tutti, e sta venendomi a portare via con un elicottero. Renzi ha sentito il collegamento e ha mandato l'aviazione civile a prelevarmi, ecco. No, quindi credo che se potesse e dovesse fare di più, ma indubbiamente il materiale umano, per citare un bel film, quello era il capitale umano qui, ma anche in certo senso il capitale umano a disposizione del Trap non è molto più di questo ai primi di settembre. Sì, non è molto più di questo ai primi di settembre, ma poi guardi anche da altre parti. Puoi pensare, ma il comune mezzo gaudio guardando l'Olanda con in cui la cosa migliore ci sono Van Basten e Van Nistelrooy in panchina, Difficoltà sparse e assorti. No, devo dire anche che poi non possiamo girarci dall'altra parte sul gol, nel senso che il gol gol di mano, no, è perché io credo che ci voglia onestà, no? Allora, se noi siamo giustamente, secondo me, ad analizzare, a scandagliare gli errori, tanti errori che ci sono, e a considerare che il calcio nella partita secca è anche un gioco di episodi, dove quindi l'errore arbitrale può contare tanto, beh, insomma, dobbiamo anche riconoscere questo. Quindi abbiamo vinto anche grazie a questo gol, non credo ci siano grandi dubbi. No, alcuni giocatori, per esempio, che stanno facendo bene in campionato, penso a Eder, ieri hanno faticato un po' di più, e questo secondo me in qualche modo si lega alle difficoltà di allenamento. Volevo chiedere a Crosetti se secondo lui Conte si aspettasse qualcosa di più, al di là della classifica che è buona, ma dalla prima parte del suo percorso, secondo te in cuor suo pensava di fare di più il CT? Io penso che si aspettasse qualcosa di più che da se stesso, dai giocatori, da alcuni di loro, come giustamente sottolinei tu, qualche volta fanno meglio in campionato, la nazionale non trova identità, non ci sono attaccanti, e sono anche d'accordo con il tuo appunto sul fair play, perché poi ci riempiamo la bocca, l'UEFA giustamente lo mette anche sulle magliette, sulle maniche dei giocatori nella Champions League, c'è scritto respect, il fair play è una cosa importante, sia quello finanziario un po' disatteso, sia quello vero, insomma, in campo. Dopodiché magari sul momento puoi non ammettere di aver fatto gol con la mano, ma dopo che tutti quanti abbiano un po' eluso il tema, anche Conte ci ha scherzato in conferenza stampa, e anche quello un segno secondo me di piccolezza, cioè un momento in cui purtroppo siamo piccoli in campo, un po' anche fuori. Questa, guarda, è un'ipocrisia del calcio in generale che io non ho mai capito, e forse la capisco soltanto perché forse se tu riconosci un errore a tuo favore, hai paura che questa cosa in qualche modo entri in una specie di librone di cose non scritte e quindi poi che possa essere usato contro di te, no? Se tu riconosci di aver perché dal punto di vista dell'immagine, dello stile, nel calcio di oggi non c'è partita, cioè se tu alla fine della partita dici siamo stati fortunati perché il gol era irregolare, secondo me fai una figura straordinaria, certo, di onestà, di correttezza, e non cambia nulla, non è che te lo tolgo il gol se lo dici partita. No, ecco. Quindi il fatto che non venga detto secondo me appartiene un po' a questi riti un po' bizantini del nostro calcio, un po' antichi, di nascondersi dietro ad un dito quando tutti hanno visto. Insomma, ieri c'era Trapattoni a commentare la partita. Trapattoni è stato una vittima di quel famoso fallo di mano di Henry che ci ha fatto indignare tutti, ci siamo sentiti più irlandesi che italiani se possibile, poi però insomma alla fine quando siamo dall'altra parte siamo bravissimi, dobbiamo quando anche siamo dall'altra parte però siamo bravissimi, cioè non perdiamo un colpo dall'altra. Fosse successo l'inverso oggi dovevamo andare avanti 4 ore, Maurizio. Sì, ma è così, poi ripeto, in questi casi poi si rischia sempre di trovare la scorciatoia cosmica per spiegare con un gesto sportivo un'indole, una storia, una razza, e questo è sbagliato, voglio dire, nemmeno il grandissimo Brera secondo me era del tutto convincente quando voleva spiegarci che gli italiani avevano dei limiti genetici e quindi avendo mangiato soltanto polenta eccetera poi non potevano competere con i tedeschi, cioè, se persino lui è caduto su questo non ci dobbiamo cadere noi, però in un paese in cui veramente tanti vogliono fare i furbi, tendono a fregare, pensano di essere in gambe in quanto furbacchioni e se rispetti le regole fondamentalmente sei un coglione, scusate se lo dico, spesse volte viene insegnato anche ai ragazzi questo, allora poi non possiamo neanche aspettarci che un centravanti che segna con la mano dica, anche se dovremmo aspettare, sarebbe un grande salto di qualità, ma non soltanto culturale, anche di furbizia, come dice Luigi, io l'invito lo fa, chi guarda, lo fa anche bella figura, non è solo migliore, è anche più scaltro, più astuto alla fine nell'ammettere l'errore. Diverso, io guarda, il mio punto di vista è proprio, non vuole essere moralistico, vuole essere di pura comunicazione, e io credo che non c'è partita, anzi sarebbe talmente sorprendente sentire un discorso di questo tipo che farebbe guadagnare immediatamente 1000 punti al giocatore, all'immagine, anche poi io ripeto, non so se la paura è quella che se tu riconosci un errore e quindi in qualche modo gli dai un peso, certe volte secondo me in realtà in certe situazioni di campionato se uno parla e riconosce l'errore depotenzia la polemica, nel senso che nel momento nel quale io ti ho fregato un gol, ok, l'arbitro mi ha dato ragione, tu mi insulti per 2 ore, dico hai ragione, è una volta che ti ho detto hai ragione, è finita, no? Parte, cioè, il più grande di tutti, non solo, ma immaginiamo anche poi l'esposizione a una certa solitudine, se non addirittura poi alla fine ai cazziatoni, al malumore, al malcontento dei compagni, dell'allenatore, dei dirigenti, cioè alla fine fai la fine di Farida che no, denunciò lo scandalo, lo convocarono 2 volte in nazionale e poi lo cancellarono immediatamente, ma anche su altri fronti non c'entra niente, ma perché? Cioè stiamo ancora aspettando il primo calciatore che abbia il coraggio di fare outing, il primo calciatore italiano, ma perché non farlo? Perché continuare nell'ipocrisia? Lo sport spesso sotto le insegne di un malinterpretato macismo, di un senso del gruppo che spesso è semplicemente una legge del branco, si nasconde la realtà e non la affronta in maniera puerile, come se fosse indietro di 1000 anni rispetto al mondo vero. Sono d'accordo, lo sport lo anticipa al mondo. Sono d'accordissimo, Maurizio, con la differenza che mentre l'eventuale outing di un omosessuale chiaramente si riferisce a una sfera privata, a una sfera segreta, e quindi insomma se uno lo vuole fare e si sente di farlo, per carità, benissimo, viva Dio, anzi può essere utile sicuramente per il miglioramento della civiltà e del rispetto, però è una scelta individuale di qualcosa che non si vede. Un episodio come quello di ieri è un episodio talmente evidente all'occhio di tutti che l'ipocrisia è inaccettabile. A Pelé non è venuto in mente il un poco con la cabeza e un poco con la mano de Dios, perché quello sì era stato una del più grande di tutti. No, è vero, era solo per spiegare, io intendo comunque che quando arriverà quel gesto pur riguardando una sfera privata, sarà importantissimo dal punto di vista pubblico, perché darà sicuramente fiducia, coraggio a tanti ragazzi che si vergognano assurdamente di questa scelta, di questa condizione. Per quello poi, certo che no, l'ho detto prima, non è paragonabile, ma volevo solo dire, qualche volta il calcio non ha il coraggio di essere al passo con i tempi. Ma assolutamente, senti, anche perché lì quello che succederebbe, scusa, chiudo la parentesi, purtroppo temo, almeno i primi tempi, è che poi un giocatore fouting, secondo me, verrebbe, curve, ecco, verrebbe massacrato, ma non solo dalle curve, diciamo anche dalle tribune, anche dagli sfottò. Quindi, non solo in Italia, non solo nel calcio, comunque. Quando Moggi, tanto per non far nomi, disse che era sicuro che nel calcio non esistessero gay, anche perché ci sarebbero stati dei problemi nella doccia quando fosse caduta la saponetta. Cioè, adesso non dico che siamo ancora a quel livello, però spesso il calcio è ancora quella roba lì, ed è un peccato, dovrà darsi una mossa per essere un pochino più, un po' moderno, un po' più libero. Quando ci sarà quel gesto, vedrete che sarà un grande passo avanti per il nostro sport. Senti, un'ultima cosa, sì, mi fanno sempre chiudere, ma un'ultima cosa, Crosetti, voglio chiederla, un'opinione sul discorso della corona di Marotta, con i tifosi della Juve che sembrano un po' persi nel bosco. Sì, beh, indubbiamente mi sembra che debbano aver pazienza, anche se, come dire, Marotta ha detto una cosa per dirne un'altra, ha detto: noi siamo soddisfatti, però volevamo prendere Hamsik e Drexler. Allora, se tu a un tifoso fai un discorso del genere, il tifoso dice: ma scusami, allora perché hai preso Hernanes all'ultima ora di mercato? Perché sei soddisfatto? No, cioè, secondo me quella frase lì era un attimo evitabile, o comunque formulabile in modo diverso. Non puoi dire: sono contento perché sto con Piera, però certamente non me l'ha data Giuseppina. Maurizio, grazie. A voi, ciao. Sempre Maurizio Crosetti, La Repubblica. Questo l'ha scritto Cruciani, dove la sosta della nazionale è inutile come l'info sul traffico ogni 15 minuti. Sì. Non è Enrico, è Cruciani. No, è Cruciani. Però adesso non c'è il traffico, adesso c'è la borsa. Non so che c'è la borsa, e poi ci sono Claudio da Udine, Massimo da Ferrara e altre cose. Complimenti per la trasmissione. Vi ascolto tutti i giorni, anche di notte. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh? No, sì. Tutti convocati. Mancini Dixit, naturalmente. Claro. Pierluigi Pardo qui con me, Claudio da Udine, buongiorno. Buongiorno, faccio tre nomi di giocatori croati: Mandzukic, Kovacic e Perisic. Faccio tre nomi di giocatori italiani: Mandzukic, Verratti, più o meno nello stesso ruolo, Verratti, Pelé, Candreva. Sì, sono d'accordo. Di questi gruppi, quale di questi tre gruppi, di questi due gruppi, è stato più corteggiato, più seguito, più messo in condizione nel nostro calcio, nel nostro campionato, di mettersi in evidenza? Sicuramente i tre giocatori croati. Non vedo grossissime differenze tecniche. Candreva, ricordiamo che fin prima di esplodere nella Lazio era era un esubero dell'Udinese. Ma si cresce anche. Io mi prendo Candreva, Mandžukić e Verratti di questi tre. Dieci anni fa era inconcepibile una cosa del genere. Perché viene, non so, per esempio Kovacic all'Inter, gli sono state date non so quante possibilità per mettersi in evidenza, per far vedere il proprio valore. Sì, poi in effetti qualcuno l'ha visto, il valore è stato pagato 35 milioni, e tra l'altro Florentino Perez oggi ha dichiarato che Kovacic è stato un buon acquisto, perché con lui abbiamo rinforzato la panchina, capito? Però cioè, un decennio fa una cosa del genere era inconcepibile. Come siamo arrivati a questo? Come siamo arrivati a denigrare così, cioè, il prodotto interno nostro, i giocatori italiani? Ci sono milioni di ragazzi che giocano a calcio in Italia. Certo, ma che emergano. Non è che dobbiamo creare degli scivoli preferenziali. Mi lasci un attimo. L'Udinese, io abito a Udine. Cioè, l'Udinese schiera 11 giocatori stranieri, ma di livello medio-basso, ve lo dico io che vado a vedere le partite. Però c'è una... altrettanti giocatori italiani, ce n'è di forti. Un portiere allora... come quello del Verona, Rafael, ma lo trova in... E allora perché non li facciamo, perché non emergono, perché non li facciamo giocare? Semplicemente perché c'è uno ostracismo nei confronti dei giocatori italiani. Io non lo credo, Pierluigi. No, non credo anch'io. Credo, fra l'altro, che ci sia sicuramente, ci sono state dinamiche, e ci sono dinamiche dal punto di vista economico, secondo me, che hanno pesato, cioè è più facile, in certi sensi è più conveniente andare a fare acquisti all'estero piuttosto che in Italia, con prezzi di tipo diverso, e questo sicuramente ha inciso. Poi per me c'è anche un discorso un po' generazionale, nel senso che comunque questa non è una generazione clamorosa, bisogna anche riconoscerlo. Quei nomi che lei ha fatto sono tre nomi di buoni giocatori, ottimi giocatori, ma insomma, dai, io penso che non sia onestamente, cioè è vero in parte, è vero che c'è questa cultura esterofila, poi il nostro ascoltatore, anzi Mandi, è di Udine e quindi è abituato a quel modello lì, che è un modello virtuoso di chi va a trovare giocatori ovunque, a 200 osservatori, a una sala videotape migliore probabilmente d'Europa. Non ci trovo niente di perverso in questo, no? Non ci trovo niente. Ci sono altri modelli, per esempio il modello del vivaio, che è stato un modello che ha seguito l'Atalanta, il modello che parlavamo l'altro giorno con Cairo, per esempio in questo momento del Torino, che è un modello che funziona. La Roma quest'anno vende due giocatori come Romagnoli e Bertolacci, che gli fruttano 48 milioni di euro, 45 più bonus, e sono due giocatori che sono venuti fuori dal settore giovanile. Cioè ci sono, secondo me, anche Marchisio, faccio per dirti, un giocatore che viene dal settore giovanile. Secondo me non è vero del tutto, cioè è giusto, bisognerebbe aiutare di più gli italiani, sono d'accordo, ma non è che siamo di fronte a una generazione di giocatori italiani che non è così clamorosa, secondo me va detto. No, poi sono discorsi che sono trasferibili anche in altri campionati, perché avevamo fatto la conta dei giocatori stranieri che c'erano nelle rispettive squadre in semifinale Champions League, la Juventus ne aveva meno del Bayern Monaco, faccio per dire, esatto, col calcio tedesco, che è un modello virtuoso. Massimo Ferrara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Pardo, buongiorno a tutti. Dica. Mi riallaccio a questo discorso qui che faceva il mio amico, diciamo, di Udine. Perché il centravanti della nazionale Zaza, io lo ammetto, sono juventino, quando è saltato fuori il discorso che voleva lasciare la Juve perché non trovava spazio, io ero uno dei pochi che dicevo che vada a sto punto, perché se non hai le cosiddette per dimostrare che sei un centravanti della nazionale, cioè, i vari Coman, Morata hanno fatto della panchina e se la sono sudato il primo posto le partite, sì, tu sì. Devi avere, sei alla Juve, non sei più al Sassuolo, devi dimostrare in quelle occasioni che ti danno di essere il centravanti della nazionale, non andare al West Ham o altre squadre, oppure andare al West Ham e giocare. Poi sono scelte personali, cioè secondo me certe volte ci vogliono anche le palle per fare le valigie e andare all'estero a vedere quello che vali, a misurarti con, certo, con un ambiente diverso. Io saluto il presidente del Lecco che ieri ha spazzolato l'Inter 2-1, complimenti. 2-1, complimenti presidente. Ah, mi fa un certo effetto, ciao, buongiorno. Ciao Aristo Beccalossi. Dai, è stata una bella festa. Doppietta di Beccalossi, no? Doppietta di Beccalossi. No, dai, io ci ho messo del mio con altre persone che abbiamo fatto la squadra per vincere il campionato di Serie D, andare nel professionismo. Poi grazie all'Inter e grazie a Roberto Mancini che mi ha dato questa possibilità, insomma, di fare l'amichevole, portando 5.000 persone allo stadio a Lecco, credo che sia motivo di soddisfazione. Certo. Hai capito, poi anche ma battuto partita, l'Inter mi dice allora poi ho avuto anche colpo di culo no, sono stati bravi, dai, perché poi quando bazzicando con giocatori che veramente prima sentivo che parlavate di giovani e tutto, quindi io ho parecchi giovani anche in squadra e farli giocare contro dei professionisti è chiaro che dai tutto per cercare di metterti in mostra, e ieri sono stato contento per tutto quello che è successo, però domenica parte il campionato di Serie D e io voglio che Lecco faccia di tutto per andare nel professionismo. Quindi bisogna stare attenti al contraccolpo. Ho parlato da presidente. Esatto, bisogna stare attenti al contraccolpo psicologico di questa vittoria, quindi bisogna tenere. Esatto, no? Ecco. Perché adesso abbiamo battuto l'Inter, il nostro campionato è domenica. Ieri è stata una bella festa. Senti, da presidente opinionista, come l'hai vista l'Inter ieri e soprattutto, insomma, sapevo com'era la situazione. Interessava a Roby vedere i due nuovi che sono arrivati e inseriti in un contesto di altri giocatori che non c'erano. È convinto, siamo in buone mani perché so come lavora Roby e io sono fiducioso, anche perché insomma due partite, sei punti, secondo me la società si è mossa bene, hanno preso dei giocatori che possono far bene, quindi l'obiettivo è quello, secondo me, di, che si riesca ad arrivare nei primi tre, nelle prime tre posizioni. Continua a parlare da presidente, Pierluigi. Un po' di dell'Inter. No, i miei sono pronti. Adesso è l'Inter che deve lavorarci un po', perché cambiando 8-9 giocatori non è la infatti serve piuttosto un bel pentolone, fai la pozione e poi la bacchetta magica di Harry Potter. Non so se Mancini l'ha presa in Inghilterra. Dietro in mezzo sono tosti, davanti sei di giocatori di qualità che alla fine la differenza la fanno. Sì, sono grossi anche. Abbiamo detto, una delle caratteristiche della squadra di Mancini è che costruisce delle squadre molto potenti fisicamente. A me sembra, guarda, ne parlavo ieri, mi sembra questo il dato più incoraggiante, più lusinghiero dell'Inter. Io l'ho commentato in diretta premium l'altro giorno contro il Carpi. Devo dire che quando arrivano sui calci d'angolo fanno impressione, no? Nel senso che hai 5-6 soluzioni molto importanti. Mi sembra che si sia ripresa una certa fisicità che era un po' il suo marchio del passato, degli anni vincenti dell'Inter di Mancini, sei d'accordo? Credo di sì, anche abbiamo visto i due centrali già dietro che sono tosti, in mezzo a campo giocatori che diciamo vanno a prestare forti, e poi davanti secondo me ha due o tre soluzioni che punti sulla fantasia e sulla qualità di questi giocatori che devono fare la differenza. Poi dopo mi faccio una domanda, tanti sentivo la campagna acquisti, Hernanes, Kovacic, per carità io non mi permetto di giudicare, però sono giocatori tecnicamente bravi, però credo che all'Inter non ha dato quello che ci si aspettava. Sì, però se Hernanes lo dà alla dà quello che si aspetta alla Juventus, e Pierluigi ha ragione quando dice che può essere un giocatore cruciale per la Juventus. La Juve? E chi lo dice? Chi è convinto che si siano lì? No, nel senso che Hernanes ha qualità, è un giocatore che è completo e tutto, però è come Kovacic, anche lui ha fatto un po' di tempo all'Inter, cioè da questi giocatori devono fare la differenza. Io, siccome non ho paura, esprimo la mia opinione da tifoso interista, io mi aspettavo di più da questi due giocatori, che poi lo possono fare in altre piazze non mi interessa. All'Inter mi aspettavo di più. Tu a 11 milioni da presidente dell'Inter non dell'Ecco l'avresti dato via nell'ultimo giorno di mercato? Tutti e due, cioè uno a che ora c'era l'aereo e l'altro in macchina. Nel senso, ma lo dico con grande rispetto, perché sono due giocatori che tecnicamente a me piacciono molto, però nel calcio non si ha tempo di aspettare. San Siro, quando uno gioca in una grande squadra non devi dare il 30% in meno, devi dare il 30% certo, in più. Mamma mia, che gol Balotelli, stavo guardando, non avevo ancora visto quello con il manto. Sta giocando ancora? No, li sto guardando. No, finita da un po', da qualche minuto. Il Milan ha vinto 3-2, diamo questo risultato di cronaca. Ho visto Sinisa che era un po', non felicissimo. Chi arriva davanti, l'Inter o il Milan? Sinisa è un amico e gli auguro bene. Mi piacerebbe che, vabbè, il primo posto lo lascio a chi è favorito e chi ha vinto negli ultimi anni. Poi dopo è chiaro che mi piacerebbe vedere il secondo all'Inter e terzo il Milan. Ma tecnicamente? È una bella sfida. No, sono convinto che noi arriviamo davanti al Milan. Questo lo dico con convinzione e non ho certezze, però sono convinto che abbiamo meno problemi adesso rispetto al Milan in questo momento. Poi il calcio può cambiare tutto. Certo. E anche il derby può cambiare qualche cosa. Grazie, presidente. C'è l'amichevole, sì. C'è l'amichevole, infatti. Pareggio. Ciao, ragazzi. Ciao, presidente. Buongiorno, presidente. Non chiamatemi presidente, lei mi fa un certo effetto. Sei il presidente dell'Eco. Bisogna che ti abiti. Scusate se insisto. Era in panchina ieri. Presidente, fai tu la formazione, di la verità. No, c'è Zanetti. Passi bene. Pizzini, dai. I pizzini, no? Passi pizzini. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao. Stai qua ancora qualche minuto? Sì, fino a... Dai, così. Sì, andiamo. Abbiamo ascolto, che abbiamo? Aspetta, abbiamo il traffico. Che piace molto a Cruciani, come sappiamo. Poi abbiamo qualcosa su Mihajlovic, che ieri non era contentissimo. Vai. Altri ascoltatori, 80024, 0024. Luca con un inquietante cappello Panama bianco. Adesso solo perché è un sex symbol. Stiamo impazzendo tutti. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Tutti convocati. giocato quelli che hanno giocato di meno, e si è visto anche perché hanno giocato di meno, perché se giocano così non potranno mai giocare, ecco. Perciò devono migliorare di condizione, di testa. Queste sono partite che servono per tutti, soprattutto per me. Poi dopo ognuno fa le sue valutazioni. Dico, è inutile dopo che uno si lamenta perché non gioca o perché non gioca spesso. Dipende sempre dall'atteggiamento. Se noi pensiamo di vincere perché ci chiamiamo Milan e giochiamo con una squadra di Serie C, se non si corre non si va da nessuna parte. Noi sappiamo che Mario deve ritornare in condizione, è anche soprappeso di 3 kg, però è anche normale, però si è messo a dieta e adesso, quando sarà pronto giocherà, finché non sarà pronto non giocherà, questo gli ho detto già dall'inizio. No, mia è l'ovvisione. La tocca piano. La tocca pianissimo su vari fronti, eh. Sì, si è capito perché. Non perché chi non gioca. Giocare chi gioca di meno, si è capito perché giocano di meno. Daniele ci dice che stiamo aspettando anche il primo giornalista sportivo che faccia lo stesso annuncio, credo fosse riferito all'omosessualità, ma credo che ci siano stati dei colleghi, sì, che hanno fatto outing. Beh, ma non... in generale il tema lo sappiamo, insomma. Però non vedo a chi possa interessare. No, beh, ma sai, quelle sono sfere private e personali. Nello sport è qualcosa di diverso. Nello sport, ti esponi, in uno sport storicamente macista come il calcio, che piaccia o no, la cosa tutti ti, gli sport, ti espone sicuramente. E non solo in Italia. Sì, no, questo è vero, questo è verissimo. Allora, Gianni da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Io sono un ascoltatore vostro che da molti anni vi segue, e soprattutto Radio 24. Volevo solo dire una cosa a proposito del discorso fatto da una persona che purtroppo io ho acceso la radio un po' troppo tardi, a proposito del gol della nazionale di ieri sera. È la prima volta che sento un discorso saggio ed onesto che tutti i giocatori dovrebbero mettere in campo, perché secondo me tutto parte dalla simulazione. Se noi non puniamo la simulazione, succedono anche di ste cose, nel senso che fare il gol con la mano e non dire niente diventa normalità. Secondo me sono due cose leggermente diverse. L'aveva detto, il discorso l'ha fatto qui presente Pardo, quindi complimenti vanno a lui, secondo me la simulazione viene punita, perché viene punita, e secondo me è un discorso diverso quello di ammettere dopo la partita qualcosa di lampante. Sì, ma guardate, veramente adesso grazie per i complimenti, ma non merito niente. La cosa secondo me è un'altra. Io ho fatto un discorso neanche morale, io ho fatto un discorso di comunicazione, di onestà, di congruenza di comunicazione. Cioè, in un calcio dove tutti vedono tutto, ci sono 500 telecamere e ti beccano, dopo che ti hanno beccato fai almeno il gesto di dire che hai fatto gol con la mano, non c'è niente di male. Tra l'altro fa parte dell'istinto di un calciatore, quindi secondo me c'è un modo anche sano di uscirne, dicendo: ragazzi, ho avuto questo istinto, istintivamente ho toccato il pallone col braccio, perché è la cosa più naturale del mondo, il gol è con il braccio, e siamo stati fortunati. Sì, poi da lì a chiedere invece al giocatore, abbiamo avuto diversi episodi in proposito, da quelli più eclatanti, da un lato di Di Canio, dall'altro lato del gol di Muntari, io non chiederei al giocatore di ammetterlo in campo, cioè questo mi sembra pretendere troppo. In campo è un'altra cosa, quando succede il campo è un'altra e cosa. Raramente succede per un gol, magari ogni tanto può succedere per un calcio d'angolo, no? Che ci sia un qualche volta è successo anche per un calcio di rigore, insomma, e lì poi parte l'applauso, per carità, è un bellissimo gesto e nessuno discute. Però sappiamo pure che nell'adrenalina, nella importanza della famosa posta in palio, nell'esasperazione agonistica, io non me la sento di prendermela con chi non lo fa. Però quando finisce la partita, di fronte a degli episodi eclatanti, clamorosi, secondo me in questo tempo di comunicazione, di telecamere, dove tutto è visibile, il giocatore fa bella figura. Tutto qua. Poi i discorsi moralistici li lasciamo da un'altra parte, insomma. Giacomo Milano, buongiorno. Buongiorno. Avviso per la cronaca, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo. Dica. Sì, l'argomento è lo stesso identico del mio predecessore. Non sono minimamente d'accordo con voi, perché noi ci riempiamo la bocca che i campioni, la gente che ha una visibilità pubblica deve essere un esempio per i giovani, per le generazioni future, e questo non è assolutamente un buon esempio. Io sono proprio perché detto dopo e ammessa questa roba, quando è tutto chiuso, quando la partita è vinta, non serve a niente. Beh, no, serve comunque a non aggiungere ulteriore ipocrisia, secondo me. Ripeto, il gesto di fair play del calciatore che va dall'arbitro e gli dice non mi ha toccato, non è rigore, è un gesto bellissimo. È come quando nel tennis c'è un giocatore che corregge contro il suo interesse una decisione dell'arbitro. Succede ogni tanto, non spesso, ma succede, e sono d'accordo con lei che sia un bellissimo gesto. Però siccome questa cosa succede raramente, perché esiste la convenienza, perché esiste la transagonistica, la voglia di ottenere il risultato, e chiaramente nello sport professionistico questa voglia è portata alle estreme conseguenze molto spesso, secondo me è poco praticabile questa ipotesi, per cui io tra virgolette mi accontento, o mi accontenterei di fronte a situazioni eclatanti, di avere un pochino meno di ipocrisia, un po' più di onestà. Poi sono d'accordo con lei che in assoluto, in un mondo ideale, no? Poi dove siamo sempre tutti corretti e onesti, però voglio dire, mi sembra un po' utopia che non si sia sbagliata la prospettiva di dire questi sono esempio per qualcuno, per qualcosa, che non dovrebbe essere così. Nella prossima Serie B, sai il cartellino verde? La prossima Serie B ci sarà il cartellino verde, sì, che l'arbitro estrarrà per quei calciatori buoni che si rendono protagonisti di gesti di fair play particolari. Esattamente questi. Esattamente questi. E che cosa ti dà il cartellino verde? Non lo so. Ti leva un giallo? Ti leva un'ammonizione? Non lo so, probabilmente c'è un premio in natura. Beh, e c'è anche il cartellino viola, che è un'iniziativa che fa la Fiorentina da un paio d'anni, sì, per rodare un'iniziativa di fair play. Sì, io voglio dire anche, cioè, in questo secondo me bisogna un po' capirsi, nel senso che poi è come quelli che ti dicono bevi responsabilmente, fuma responsabilmente, cioè delle volte c'è un po' un conflitto, no? La partita, l'importanza della partita, l'importanza dei tre punti la stiamo a pompare dalla mattina alla sera, la pompa dei tifosi, i giocatori, i giornalisti, insomma. È difficile poi che uno, no, faccia proprio il fair play, quello clamoroso, che dica no, non è rigore, grazie arbitro, eccetera. Basterebbe, secondo me, evitare, come diceva l'ascoltatore prima, e punire pesantemente le simulazioni e i comportamenti antisportivi. Sì. Questo, secondo me, questo è quello che mi aspetto. Io non mi aspetto l'eroismo, la bontà. Ecco. Questo è previsto, mi aspetto che ci sia compito dell'arbitro. Esatto. Marco Napoli, abbiamo 30 secondi. Giusto il tempo per salutare. Buongiorno, bentornati ragazzi. Grazie, sempre stati qua. Grazie comunque per la convocazione. Io volevo tornare al big match Roma-Juventus della settimana scorsa e volevo chiedere il vostro parere. Secondo voi, vista la bruttissima Juventus in campo domenica scorsa e la vittoria meritata della Roma, secondo voi è finito l'effetto Conte? E poi l'ultima cosa, ma siete sicuri che quel ragazzino sopravvalutato col numero 10 valga veramente 100 milioni? Grazie. Pogba. Allora, le rispondo se vuole io dopo Gera, adesso devo salutare Pierluigi Pardo. Sì, effetto Allegri. Effetto Allegri. No, ho capito. Non è che quando la Juve vince è merito di Conte, quando perde è colpa di Allegri. Allegri. Mi sembra eccessivo. Ciao Pier. Ciao. Ci sentiamo domenica da Expo. Secondo me questo è tutto da rifare. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Si ricomincia. Convocati. Se la nazionale di calcio ha i minimi storici di appeal, popolarità, di risultati anche, dall'altra parte del mondo sportivo come interesse c'è la nazionale di basket, che da domani comincia l'avventura degli europei, li vedremo tutti su Sky. E c'è qualcuno come il mio amico Sasha Djordjevic che dice che sarà l'europeo più duro di sempre. Una delle voci storiche del basket e di Sky, Jerry De Rosa. Ciao Jerry. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ciao. Senti, siamo tutti eccitatissimi. Ti sento e siamo tutti eccitatissimi, anche quelli che normalmente il basket lo guardano magari con un occhio solo, perché questa è la nazionale forse più attesa di sempre. sicuramente la più attesa di sempre, adesso deve dimostrarci che è anche la più forte, come può essere facendo la somma del talento diffusissimo che c'è, però lo sai meglio di me, sei forte solo quando vinci, quindi non si può dire prima. Sicuramente c'è grandissima attesa. Senti, qual è il problema principale di questa nazionale? Secondo me potrebbe essere quello della chimica, di un gruppo che ha giocatori fortissimi, che forse non abbiamo mai visto in maglia azzurra, ma non ha delle gerarchie precise. Potrebbe essere un problema questo? Eh sì, sicuramente, ed è quello su cui Simone Pianigiani e il suo staff hanno lavorato profondamente. È un problema non semplice da risolvere, paradossalmente, perché c'è quasi un eccesso di talento e quindi gli equilibri non sono facili da trovare. E secondo me questo problema in campo si risolve con un numero un po' troppo alto di alti e bassi, scusa la ripetizione, e ogni tanto questa squadra va un po' in blackout perché manca la circolazione di palla, mancano le scelte giuste, perché quando giochi poi a poco l'istinto prevale sulla vera propria concentrazione. E allora arrivano questi bassi che sono in attacco, e una squadra di grandi attaccanti se non attacca bene poi difende ancora peggio, e gli effetti poi si vedono in difesa. Però questo è quello che ha detto la fase di preparazione, che secondo me, come anche sottolineato Scariolo ieri, lascia un po' il tempo che trova. Da domani si gioca, e il fatto che abbiamo un girone durissimo secondo me paradossalmente può essere un vantaggio, perché mi aspetto di non vedere questi alti e bassi quando hai di fronte la Turchia o quando avrai di fronte la Spagna o la Serbia. Quindi insomma c'è grande fiducia, i ragazzi hanno appena finito l'allenamento, sono molto carichi obiettivamente, hanno fatto un allenamento bello sostenuto. Insomma c'è molta fiducia. Sì, sarà anche un grande europeo a prescindere dall'Italia, dai nostri interessi particolari, sarà forse davvero l'europeo più bello di sempre. Sì, credo proprio di sì, visto che praticamente non manca nessuno, a parte qualche infortunio che ha colpito più che altro la Spagna, che però ha diciamo un bacino tale per cui le assenze probabilmente non si sentiranno. Del resto è un europeo che qualifica l'Olimpiade, quindi le grandi stelle delle Olimpiade la vogliono fare, e ci sono praticamente tutte. Pensa che Novitski non giocava in nazionale da 4 anni ed è tornato di corsa, è l'unico giocatore di tutto l'europeo nato prima del 1980, il più vecchio della competizione, ma rischia di ancora di poter essere decisivo, perché la Germania gioca questa prima parte in casa, c'è enorme attesa, la Spagna è senza Marc Gasol, senza Rubio, senza Navarro, ma c'è Pau Gasol, c'è Mirotic al debutto nella nazionale maggiore spagnola, e lui è una stella vera e propria, potrebbe essere l'uomo in più dell'europeo. Insomma potrei andare avanti tantissimo a raccontarti di tutte le altre stelle che ci sono a questo europeo. Ce le fate vedere tutte le partite, no? Allora, tutte le partite del Giro d'Italia, più altre due in differita, e tra una partita e l'altra, sfruttando il fatto che si gioca in parti diverse di Europa, vi proporremo all'interno dello studio, tra un'intervista e l'altra, anche in diretta degli aggiornamenti dagli altri campi, se si gioca in Croazia, in Lettonia e in Francia, gli altri gironi, vi faremo vedere brani di altre partite, cercheremo insomma di far vedere quasi tutto l'europeo, per poi quando ci si trasferisce a Lille far vedere veramente tutto quello che succede. Allora prepariamo l'agenda, perché questi sono gli appuntamenti da domani. Grazie Jerry, buon lavoro, grazie davvero, buon lavoro a grazie, te. Grazie, grazie a voi, ciao Jerry, buon lavoro, grazie a te, a Sky, speriamo di dire grazie alla fine anche alla nazione italiana, che c'è questa curiosità cabalistica. Allora, primo oro quello di Nantes, Sandro Gamba allenatore, 1983, sono passati 16 anni ed è arrivato il secondo oro, quello con Bošćatanović, Meneghin, Myers, Fučka e tutti quegli altri, De Paul, posso elencarli tutti. Adesso sono passati 16 anni esatti da quell'ultimo oro, chi vuol crederci lo faccia. Giulio Vicenza, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, io non è che muoio d'amore per il calcio, naturalmente la partita di ieri sera ne ho visto un pezzo, mi ha convinto su determinate cose, però per quanto riguarda l'onestà, la trasparenza di certi comportamenti, io ricordo che Di Cagno nel campionato inglese, sì, abbiamo citato prima, stava per segnare un gol, ha preso il pallone in mano e ha indicato il portiere che si era infortunato, portiere avversario, no? Quindi queste cose si possono fare, nessuno l'ha insultato. giocatori avversari l'hanno abbracciato. Sì, ma Giulia, è un episodio così raro in tutto il mondo, non dico solo in Italia, in Europa, in Inghilterra, eccetera, eccetera, che ce lo, a distanza di tutti questi anni, l'ho citato prima questo episodio, ce lo ricordiamo ancora adesso. Io penso sia difficile pretendere dagli sportivi, da qualunque sportivo, e non sto parlando solo dei calciatori, comportamenti di questo tipo. Sia molto difficile pretenderlo a livelli di professionismo estremo. Quindi Di Canio lo stiamo applaudendo ancora adesso, applaudiremo il prossimo che lo farà certamente, e ci verrebbe molta voglia di applaudire, come diceva Pardo prima, il giocatore che a partita finita, nelle conferenze stampa, ammettesse il gesto. Sì, l'ho toccata con la mano, mi scuso con gli avversari, gol importante, capita di darle, di prenderle. Avrebbe potuto farlo per lei ieri sera, avrebbero potuto farlo tutti ieri sera, Conte compreso, e sarebbe stato un eccellente gesto di immagine e di comunicazione. Mohamed, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Io grazie per la convocazione. Grazie a lei. Ok, volevo intervenire un po' sulla nazionale di Conte. Sì. Per me, diciamo, io non sono italiano, però direi che tifo anche l'Italia. Certo. Quindi per me l'Euro 15 siamo quasi, manca pochissimo. Quindi per me la preparazione è quasi finita. Fino adesso per me vedo che l'Italia non ha ancora un gioco. Bisogna dire che l'Italia di Prandelli veramente giocava molto meglio di questo nazionale. Ieri davvero a me non ha piaciuto la nazionale. Sì. E per me vedo che, chiedo anche la domanda, secondo me due attaccanti più forti dell'Italia che abbiamo, bisogna cercare di recuperarli, che sono Balotelli e come si chiama? Giuseppe Rossi, destro. De Rossi, c'è anche l'altro, come si chiama? Osvaldo mi sembra un po' perso. Bravissimo, ma sei un po' perso. Gli allenatori anche bisogna che si comportano delle volte come un papà, come un zio, cercare di recuperare anche i giocatori, aiutarli un po' sui comportamenti. Sì, poi loro devono aiutarsi un po' da soli e cercare di uscire dalla nebbia in cui sono finiti. È chiaro che questa è un'Italia che ha un forte deficit di talento offensivo, perché io continuo a pensare che Pelé e Eder siano una buona coppia di una squadra da metà classifica in Serie A. Non si offendano gli interessati, a questo è il mio pensiero. Siamo, insomma, in Europa tra le grandi non vedo una coppia così con questi limiti, insomma. Allora, io adesso uso il pubblico mezzo radiofonico per dichiarare il mio disappunto nei confronti di Giorgio Terruzzi, che è maestro ma credevo anche amico, perché non mi ha detto in anteprima che usciva Grazie Valentino suo nuovo libro. Ciao Giorgio. Buongiorno. Ho dovuto scoprirlo dai giornali, vedi tu. No, ma non ho fatto in tempo, perché è stata una cosa un po', come dire, estiva proprio. Me lo racconti? Mi dici, adesso che ci sentiamo, puoi dirmi cos'è questo Grazie Valentino, lettera a un campione infinito, edito da Rizzoli? Ma no, ma guarda, è una roba che è nata dopo la vittoria Assen quest'estate, così, nel senso che avere a che fare con un sacco di gente così contenta, in un momento in cui, non so, tra giornali, notizie, disastri ferroviari, insomma, c'è questo qui che da anni ci regala un divertimento, una gioia, ma anche un piccolo insegnamento sulla capacità di migliorarsi, sul valore del lavoro nel tempo, sull'abbinamento tra fatica e piacere di faticare e di portare a casa i risultati. Insomma, ho detto, scriviamo una lettera di ringraziamento, di gratitudine, di, come dire, allegria, uno che ci tratta caviale e champagne da tanto tempo. Quindi questa è la storia del libro, che è stato scritto quest'estate in una sorta di sgurz, così, di buona voglia, sfruttando una lunga frequentazione, perché poi stiamo parlando di un ragazzo che ho avuto la fortuna di vedere molto spesso per lavoro, per cose per personali, perché sono molto amico del suo babbo che mi fa sorridere. Insomma, questa è la storia del libro, è una lettera di di gratitudine a uno sportivo meraviglioso come in Italia ne abbiamo avuto, insomma, che è entrato nella leggenda dello sport in generale. Ma d'altra parte, guarda Giorgio, credo che non sia anche in questo caso un fenomeno solo italiano. Basta guardare una qualunque corsa in televisione anche dall'altra parte del mondo e il colore predominante sulle tribune è sempre il giallo, il numero dominante sulle tribune è sempre il 46. Ma sì, è un po', come dire, un attestato nei confronti di un ragazzo che ha attraversato il mondo, perché tanti anni che fa l'asino, come dico io, che non cresce, come dico io, ma il bello è anche quello, no? In qualche modo è un ragazzo che ha gessato una parte adolescente di se stesso, che gli permette di divertirsi e di fare quello che fa così, che poi significa comunicare così, che poi significa adesso dosare meglio le proprie forze, ma dosarle bene, perché ormai mi sembra un vecchio predatore che non è che corre dietro a tutte le gazzelle, ma quando si mette la prendere quella lì. No, ma poi che quello che hai raccontato prima è il segreto di Pulcinella di ogni grande sportivo di qualunque sport, cioè il talento abbinato alla voglia di farsi un mazzo così. Perché poi puoi raccontare la stessa storia di Michael Jordan, di Cristiano Ronaldo, di Messi, di tutti i grandi giocatori che non è che sono lì solo per il talento, ma sono lì perché Valentino Rossi, quando è stato pettinato per tutte quelle volte da Marquez, che cosa ha fatto? Si è messo lì a 35 anni, 34 anni a imparare uno stile di guida diverso, un atto di umiltà che lo ha portato dove è adesso. Esatto, ed è una cosa molto rilevante, cioè segna proprio una differenza, secondo me. Ed è quello che dicevo prima, cioè secondo me, io dico sempre, lo dico anche un po' per avere un po' di ottimismo, che uno anche a 50-60 anni può cambiare, può migliorare, figuriamoci uno così dotato, da una parte, ma così consapevole che il talento non basta. Certo. Giorgio, come finisce la battaglia politica per Monza? Passando alle 4, secondo me non tanto bene, perché c'è un sacco di gente che chiacchiera, ma poi i soldi bisogna tirarli fuori. Io penso che il problema sia un po' questo, cioè non è Eccleston, fa il suo lavoro e bisogna spendere. Ora mi pare che se non si muove o il governo, intendendo la regione per un verso, il governo o la Ferrari per un altro, intendendo Fiat, o qualcuno che dice vabbè, insomma, prendi mano ai portafogli, la situazione è un po' uno stallo, non molto ottimismo, secondo me. Il Gran Premio di Germania è saltato in 448, non c'è più, la Germania c'è a Vettel, c'è la Mercedes e non lo fanno il Gran Premio di Germania, cioè lo dico in funzione delle petizioni, della passione, quelle cose lì. Poi della storia, realtà, della tradizione, perché tutte queste sono gli argomenti che sono stati tirati fuori da Renzi in giù in questi giorni, no? No, certo, però poi alla fine uno deve comprare il bisone, no? Che costa, o c'è i soldi o non c'è i soldi. Mi dispiace perché qui c'è un investimento enorme, questo è un problema poi a mare, cioè qui c'è una tribuna, c'è un impianto che è costato un occhio della testa e che costa tanto di gestione, e questo è un altro tema che rende critica la situazione, che può andare deserto, no? però c'è una storia che è straordinaria, quest'anno in sala stampa ci sono tutte le foto della storia di questo posto, da Nuvolari a Scari, insomma ti piange il cuore a pensare che questo posto si ammutolisca o comunque non abbia questi rumori qui da Formula 1, però il rischio secondo me è molto rilevante. Sì, e la battaglia sportiva invece domenica, che la corsa ci sarà in questo caso e ne siamo certi, non c'è problema, oggi sono iniziate le prove, solite Mercedes davanti, a davanti Vettel il terzo a 7 decimi e mezzo, che sono tanti, considerando l'anno scorso andò meglio, addirittura il venerdì, bisogna vedere anche cosa c'è dietro queste prestazioni, perché il venerdì a Monza della Ferrari pesa anche una, non so come dire, un problema di cassa sul weekend, lo dico senza nessuna malignità, ma insomma spesso in qualche modo serve che la Ferrari vada forte, quindi non so con che carichi di benzina temo una reazione domani in condizioni di assoluta parità di tutti i motorizzati Mercedes, perché c'è Force India, Williams, Lotus, perché qua la cavalleria conta, però la Ferrari ha usato quei gettoni lì, cioè ha migliorato, porta qui un motore evoluto, insomma, vediamo, però parliamo dal terzo in giù, perché, sì, certo, perché davanti ci sono, c'è il tamarro più veloce del mondo, Lewis Hamilton, esatto, ha i tatuaggi anche sulle orecchie, biondo con i tatuaggi fin sulle orecchie, non so dove Rihanna possa portarlo. Seconda soddisfazione, se non ce li hai, per esempio. Bravo. E secondo arriverà Rosberg e poi terzo, poi il Gran Premio degli Umani lo scopriremo. Esatto. Giorgio, grazie. Grazie a voi. Un abbraccio forte, Giorgio Terruzzi. Allora, a Valerio, provincia di Bergamo, e anche a Maurizio, provincia di Belluno, prima di farli parlare, racconto qualche storiella dal mondo, tornando al calcio. Amburgo, c'è un giocatore estone, si chiama Rudnebs, spero di averlo pronunciato giusto, è un nome difficilissimo, che ha avuto qualche problema con la moglie. La moglie si vede che è una abbastanza cazzosa, che ha fatto, l'ha aggredito e gli ha staccato la lingua, portato all'ospedale, gliel'hanno ricucita, ma è una storia vera che è accaduta a questo giocatore dell'Amburgo, che adesso avrà qualche problema per le prossime partite della sua squadra. Cile è uno che conosciamo. Allora, in programma amichevole tra Cile e Paraguay, e il solito, guardate un po', Vidal, che torna in ritiro dopo la notte al solito casino, quello dell'estate, quando poi aveva scassato la macchina e tutto quel casino, è andato ancora, è tornato in ritiro al ticcio, diciamo, ed è stato rispedito a casa. Quindi per Vidal niente Cile Paraguay. A proposito di cattivi, andiamo a San Pietroburgo. Villas Boas, allenatore dello Zenit, che ha imparato benissimo da Mourinho, è stato suo vice, come ricordiamo, aggredisce il quarto uomo, maxi squalifica, 6 giornate per lui. Ultima tappa, Ostrava. Allora, Banico Ostrava è una squadra storica del calcio danubiano. Ebbene, i giocatori, insomma, non va benissimo in campionato, ha preso un sacco di botte e gol, e allora per punizione cosa succede ai giocatori? Non è che gli levano, li multano, non è che li mandano in ritiro come al solito, no, si presentano tutte le mattine, pregasi presentarsi ogni mattina ore 6:45 al centro di allenamento a zappare. Eccezionale. Valerio, provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi richiamato. A lei. Niente, volevo solamente tornare sul discorso appunto del gol con la mano. Sì. Mi stupisco perché appunto anche per quanto riguarda voi operatori del settore, giornalisti, commentatori televisivi e quant'altro, cioè mi aspettavo un coro di indignazione, di condanna per questi gesti che non fanno altro che far del male al calcio, cioè in questo caso tocca a noi Italia, però cioè, premetto, io non ho visto la partita, però a pranzo quando ho avuto modo di vedere come era stato segnato questo gol, cioè mi stupisco come si possa esultare per un gol fatto con la mano. Che dobbiamo fare? Noi sinceramente che cosa dobbiamo fare? Anzi, io credo che oggi se ne sia discusso a lungo, proprio perché abbiamo detto che non noi, ma i protagonisti, da Pelé a Conte agli altri, sarebbe stato bello, sarebbe stata cosa buona e giusta, ma vale per loro come vale per mille altri, dopo la partita, dire, invece di glissare, dire non me ne sono accorto, non so dove ho colpito la palla, eccetera, l'ha visto tutto il mondo, e quindi sarebbe stato bello dichiarare: ok, stavolta ci è andata bene. È stato un colpo di mano e di fortuna. Maurizio, provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Io ho chiamato solo per congratularmi con l'allenatore di Malta, che pur avendo preso un gol irregolare, Non ha fatto nessuna protesta, ha riconosciuto l'andamento della partita, e sarebbe un atteggiamento che se tutti gli sportivi italiani, e in particolare quelli del calcio, tenessero, ci sarebbero molto meno polemiche. Mi vengono in mente allenatori italiani, ma anche stranieri che lavorano in Italia, che su situazioni molto più dubbie di queste fanno una cagnara incredibile, insomma. Ci uniamo all'applauso a Guedin, tra l'altro allenatore italiano che ha costruito una squadra assolutamente dignitosa, assolutamente tosta e difficile da battere. Ragazzi, aggiorniamo la seduta. Allora, ci sentiamo settimana prossima da Expo. Ma da Expo cominciamo domenica con tutti i convocati weekend. Ci trovate lì dalle 17 alle 19. Poi ci troverete lì in orario d'ufficio, dell'ufficio di tutti i convocati, 14, 15 e 30, tutti i giorni. Ciao a tutti, grazie a Giorgio De Luca per il nostro autore, a Gianmarco Ferronato in regia, a Giovanni Recchioni in redazione. Ciao. Arrivederci ragazzi, ciao!